la manifestazione del finale dei tornei che facciamo noi, e ci avevamo i radiomicrofoni. Per dire, tra te, una cosa che tu dici è inspiegabile. Il radiomicrofono, giravo il microfono, sentivo la radio del golfo, col microfono, che c'hanno il conto di ripetitore che trasmette sulla stessa frequenza, trasferimento, però, sulla stessa frequenza dei coso, di questi microfoni senza fili. Come giravo il microfono, sentivo la radio. Dite, non è possibile. Trasmette ma sulla stessa frequenza esatta di quello lì. Come? Dimmi lui, che cosa fa? Check it. diceva che stava piovendo, che c'era freddo, che appena passava questa ondata di molto tempo si riprendeva, non c'aveva cose importanti a scuola. Ah, sì, ha registrato il break. Non ti so male. Ah, mi pare una giarigana. Guarda, io non chiamo a nessuno, se vuoi venire venga. Ma il discorso era buono, giovedì magari era brutto. Comunque, non so se sta anche a toccare registrato un break. Facciamo entrare questo break e vediamo. Avanti. Nessuno, senti questo Salvatore, poi tu che sei più forte la scacciata. Allora di nuovo Salvatore. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera signora, buonasera. Avanti. Sono Catiuscia. Ah, Catiuscia. Buonasera Catiuscia. Oh. Avanti, prego. Buonasera Massimiliano, va qui. Ciao Massimiliano, c'è anche una signora o signorina, non ho capito chi è, avanti di nuovo. Catiuscia. No, io non la sento. Catiuscia è. Non la sento. Anzi Catiuscia. Il microfono molte volte non esce in radio. Poco fa ho sentito chiara chiara io. Ma non è entrata Natalia, era un bel forte, non l'ho più sentito. Avanti signora Catiuscia. Così da un tempo di entrare alle persone, se no non si comprende più nulla. Un secondino di bianco, avanti la signora, la signorina, con la buonasera. Signora? Signorina, ho detto. Ma meglio che parli, avanti di nuovo, lei, fatti sentire. Non è grave, come da, non l'ho preso, l'ho preso. Fatti uscire, ha detto, va bene. Benissimo, radio perfetta, 9:20 il segnale, cosa non ti dica? Però metta avanti, ma se la riprendi tu e poi fa girare, c'è Salvatore, Pierpaolo, io e Falchetti, e poi l'amica se vuole entrare entra. Di nuovo Massimiliano. Ehi, allora, buonasera a tutta la ruota, così non mi dimentico nessuno, vai. Coordinati 131, direzione Papa Stanco. Ok, mi sembra che avevo sentito anche il Natalino, Roberto, mi sembra che c'è anche il Natalino. Ok, riprendi tu Salvatore, con la buonasera, dai. Buonasera Massimiliano, sei in direzione di Papa Stanco, allora tra poco passo sotto le mie coordinate. No, da alle quelle si arrivava con un segnale forte, sicuramente dalle parti mie. Ok, vediamo poi, provo a rilanciarla, con la buonasera, avanti per la ruota. Negativo, va bene. Ok, e quanto vuol dire Roberto? Adesso io e mia moglie, chi li chiamo più con i ragazzi? Lo sanno, gli ho detto che siamo, che Claudio si è messo a disposizione di accompagnarli. Sia di gana vengono, sembra che gli stiamo facendo la caccia. Se fate non lo so, manco che sia arrivata a Roma. Dico, visto che ci avete dato la disponibilità, gli ha dato la disponibilità a tuo figlio, non capisco più. Sembra, vabbè, se capiterà poi magari che si fa un'altra partitella, li vediamo, così magari ci parlo di capire che intenzioni hanno. Ok, allora vediamo se è rientrata la signora, se no continuiamo noi. Avanti di nuovo, se vuoi entrare, Catiuscia, come ti chiami? Capo bene, avanti, Salvatore. Ma già io più lungo. Facendo i galletti, avanti. Io non ti ho conosciuto adesso. Ma Robe, lui è che l'hai conosciuto. Ma Gianni, che è mamma, così si muove a proprio da in arabo, lo confondo già. Lui stavate facendo, basta che entra una signorina, capo? Ma Gianni, tua figlia era. Ma chi era? Ah, non è tu che hai fatto lo scherzo, pensavo fosse tua figlia, che si facendo lo scherzo tu già. No, non è mia figlia. Sono Gian Riccardo. Avanti, chi è che mi chiama? Natalino è freddo, ragazzi. E con che apparato stai uscendo, Natalino? Con che apparato stai uscendo? Non con la macchina. Sono in macchina. E dove sei? Sto vicino a casa, sto per arrivare a casa, così me ne vado a cena. E dopo la limite ci sentiamo più tardi, gara a gara. Ma io adesso devo andare a prendere Manuela da un'amica che stavamo studiando. Devo uscire, non aggiungare questi due di nuovo, oh, mamma mia. È dura, eh? Sicuramente è troppo un travaglio per freddi, se non a gara. Ciao Rory, ciao Rory. Mattesi. Io lavoro lo stesso per Siguiria. Io porto prodotti, faccio, mi do l'affare lo stesso. Beh, di notte lavora Gianni. Allora, lo prendiamo tutto rotto. Sembrava che fosse il Papa da come si è entrato, ce l'hai comprato. Ciao Domenico. A tutti, ciao a tutti, belli e brutti. Ciao Domenico. Direzione Olbia? Sempre lì, come dico sempre, ci devo andare, ma in 8 anni che ci devo andare ancora non mi è capitato niente di bello. Lavorare e basta. Ma come donna questa la faccio da posto? Ma di quelle di me di Olbia ce ne sono tante, ma non è un gusto che mi piace, capito? Ah, ah, dai. Le negre, le bianche, chi ci non si piace da tu? Domenico, quelle a pagare non mi piacciono, di quelle a pagherò. Domenico, la cosa? Mi chiamo avanti. Scusa, Bulldogger ti chiama. Scarico i cani dalla macchina e ce li porto su a casa. sono arrivato, ero stavo spingendo, ero con una quindicina che ne stavo andando. Ciao, chi sei? Antonello, ciao. Antonello Pompugno. Ehi, ma come stai uscendo? Comincia, dice, è la fare il tuo lavoro, con lei. Tanto avevo mai riconosciuto. Comunque c'è compagnia mia di Gianni, Pierpaolo, Domenico che era alla galleria, Salvatore che è in coso, in bianco, Falchetto, Massimiliano che si è fermato un attimino, e se vuoi prendere a Gianni o c'è che si dorma, avanti già. Gianni. No, forse Gianni sta cambiando per andare a prendere la figlia, mi sa per quello che non lo sentiamo. Ah, è uscito quindi. Dice che doveva andare a prendere la figlia, non so se si sta cambiando o se si è già uscito, comunque l'hanno già lanciato un paio di volte e non l'ho sentito. Adesso vediamo se Domenico è uscito dal buco, avanti Domenico. Va bene, comunque Domenico se non avete sentito tanto non è l'altro, dai, dopo che è uscito lo riaccompagniamo. Avanti di nuovo Antonello e facci sentire questo giocato. Ora salita di Campomeda di lì arriva fortissimo. Ma di una cosa, dove tu non hai niente sotto, sei con quello dell'apparato. Tu hai detto solo Santiago 5, sì, altalenante, poi sei andato più avanti, metto sono, non so che cosa, però non ho capito dove eri. Anche a te stai a dire dove c'è scritto Marti, se dove eri. Ti ho sentito sino lì, piccolino piccolino, e ti ho sentito. Se c'è la potenza da parte, sei andato alla grande, una bomba. Va benissimo, allora, si fa sentire quel giocattolino spinge. Come, avanti di nuovo, chi c'era? Pierpaolo, vediamo un po'. Massimiliano Bulldozer, mi ascolti? ultimi discorsi sento. Ciao Massimiliano. Buonasera a tutta la ruota. Ciao ciao. Ciao Massimiliano, è brutto. I cani ma stai rientrando a casa? Sì, a casa, perché lì? Quando rientri fammi una chiamata qua che devo fare una passa. Via. Ma rispondimi però sul telefono, non farlo squillare come il solito il tuo. Che mi fai consumare 350 grammi di batteria. Va bene. Allora si è spaventata perché ho scartato un fosso. Hai scartato un fosso? Hai fatto bene. E poi va bene, è come che li asciugge, guarda la mia voragine. Oh Roberto, per questo, ma hai sentito? Questa sera c'è stato un brutto incidente sulla Sasa Iusio. Altezza dovrebbe essere dopo il bivio sul rettilineo. No, non so niente, chi è questo? Ci sono tanti amici, speriamo non sia qualcuno. Ma che è successo? Non so, che era successo, è successo verso le 5. Dovrebbe trattarsi di una, dovrebbe essere una donna. Non so i nomi, non so niente. I nomi non li so, ma so che si tratta di un frontale, perché li hanno estratti pure. Chi te ne è stato questo? Ho capito, non c'è problema, no, per capire, ma per chiedere le informazioni, ma sono messi male perché? Guarda, che se sono messi male molto non lo so, sono soltanto che le ambulanze ci sono state, erano le tratti, carabiniere, perché ho sentito che le hanno estratte carabiniere, senz'altro si sono fatti male, ne deduco. Allora per quello io ho sentito, infatti ci ho fatto caso stasera verso quell'ora, ho sentito un sacco di ambulanze, pulizia, cose del genere, infatti ho detto dove è successo qualche cosa, ma siccome qua passano tutti i momenti, le sento, le sirene, le abito io, ho detto guarda, quasi pure che saranno in altre parti, però pensandoci bene li ho sentito verso quell'ora. Ok, però nessuno si è fatto male gravissimamente, era che sia una cosa recuperabile. Vediamo se Domenico ci ascolta ancora, così gli facciamo un po' di compagnia. Avanti Domenico. Come ho detto, allora riepiloghiamo. Per Paolo Massimiliano ha chiuso, Gianni che è in giro, poi c'era Natali, non so se c'è ancora, avanti fate tu prima, avanti. Affanoso, in effetti li ho sentiti io a quell'ora lì lo stesso, le sirene, robe, le ho sentite e non una, più di una. Non lo so anch'io. Vediamo Gianni c'è ancora. Ho detto che non ero in giro, ero a prendere mia figlia. E non c'è in giro? No, in giro è un'altra cosa, quando vai a divertirti. Ma in giro lo parlo fuori casa, là, sempre in movimento, se dirà, già sei in macchina, là. Vediamo poi chi c'era, per poi di nuovo. Ma c'era anche altro che ho preso sbaglio, non ho sentito per niente. No, ancora no, che era, è arrivato da poco al lavoro ed era in doccia. Adesso non so se c'è, se c'è il radio, facciamo chiamata. Avanti Antonio, se ci sei, se mi ascolti, Allora, buonasera a tutti, ho appena acceso, Allora, io vado in questo senso, la gente no, che vai Antonio, sotto. Mi appare nella parata, mi chiede, proprio come tipo l'RDS, Antonio, io lo so quando attacca, ecco. E allora, si è messo il trisoma con la martingala oggi. Anche avete parlato in due, vabbè, di due, tu hai parlato, Natalino da ammazzato, ripeti altro problema. Io so quando entra il radio Antonio, cioè quando entra, da prima di entrare come attacca l'antenna, io la sento la colore, perché sento il PL. Perché attacca il PL ogni volta. E allora, lui attacca il PL perché teme i fulmini. Addirittura tanto se devi entrare ti sciogli l'impianto della corrente, non ti brucia certe cose, però se entra nell'impianto elettrico ti scioglie tutto lo stesso. E l'ultima notizia è stata corrente, non è stata lo spiro, è stato furti, quei trottoni furti. Cioè, no, molte volte non mi bisogna mai, perché non avevo voglia di tanto, se deve entrare mi scioglie il piatto elettrico, non c'è niente da fare. Spero sempre che cada da un'altra parte. Non lo so. Con chi stai parlando per fare? Con Natalino. Morello. Attenzione Domenico, se escuci questa stazione di Sassari, adelante. A te non ti senti, a me è probabile di sì, ma a te no, Ciao Antonio. Attento, già nel caldo, si ascolti qua. Gara gara. Ce l'avevamo da sul tetto, sta costrutto. No, non mi frega meno. Butta il piede in terra e ciccia. Ma quella anche se butti il piede in terra ce l'hai a 10 metri, se te entra il fumo in casa, si scarica il pavimento, te ne entra anche nella camera da letto, se ti vedi. Sì, sarò ben insomma del bardato di Brugia. Allora scarogna forte. L'importante è che non mi bruciamo baracchino. Beh raga, io sono arrivato, ci sentiamo magari domani. Gara gara. Buonasera a tutti. Stasera mi dingoglio. Ciao ciao. È caldo già. E vai, Gianni il caldo, vai, vai. Ciao Gianni, riprendi a casa, riprendi. Lo riprendi dopo. No, no, non sono a casa. Sono là. Sto lavorando. Ciao a tutti. Ah così, vabbè, dai. Buon divertimento, guardate che non si faccia male a nessuno che rimane tutta la notte fermo. Ciao ragazzi, ciao a tutti, per farti chiamo? No, già ti chiamo io, fra un paio di minuti. Va bene, ciao. Ciao Gianni, ciao ciao. Buon lavoro, buon tutto. Ecco, 2.000 euro al mese le danno a Gianni per fare quel servizio, più 3.500 per prendere l'altro lavoro, fate lo conto, 5.500 euro al mese per prendere. Ah, davvero, di più. In due. Cosa vuoi di più? A giudizio, se non li vuoi dire qui nella faccia. Ecco, la Natalino 7.500 ne prende, e più anche lui si fa qualche lavoretto, un paio di migliaia le prende al mese. E io di notte vado ai giardini, vado. E sotto di giova quando le ho parlato. Poi si porta tutti i soldi in coso, in coso, in Svizzera, Natalino, e poi l'estate si va della settimana bianca alle Hawaii. Ecco. Ma quale dice Natalino? Sempre quella di Talisse? Ho finito. Il giorno ho finito. Quindi sei fermo adesso? Via. Vabbè dai, speriamo che ti riprenda, quello che ti dica. Vediamo un pochettino l'amico Antonio, se c'è ancora, ma c'è Antonio. Grazie. Come abbiamo, ho mandato i saluti da una persona. Non ho capito, a me stai dicendo tu. Chiara. Cosa hai detto? Non ho capito. Ti ho mandato i saluti da una persona. Cosa vuol dire mi hai mandato i saluti da una persona? Non lo so, credo che eri tu, invece era Babuzzoglio. Vedevi che eri tu? Ma che non mi conosci a me, a tu? Scappa, no, non ti ricordo, no, no, la verità, no, sono passato in quella zona, dai, ho detto mandi saluti a Roberto, credo che eri tu, hai capito, di mattina. Non mi ha detto, già mi sei stato un diverso da Babbo Mego, sicuramente, no? Infatti, domande saluto a Roberto. Vabbè, non c'è problema, grazie. Cosa volevo dire? Ma che cosa stai lavorando, quindi? No. Perché adesso io stavo male, non ho ancora ripreso, dico, neanche io ho già lavorato. No. Va bene, aspetta, vediamo un po' se è domenico, perché se non sa niente. Avanti Domenico, se compi Sassari, avanti. Non lo so, beh, probabilmente c'è qualche cosa, però va. Chi c'era? Avanti nuovo, la taglio e poi per Franchetto. Io lavoro a tempo Domenico. Il maracchino l'ha spento, magari non lo sentiva nessuno, allora l'ha spento per quello. Va bene, avanti Falcos. Ciao Rocce, adesso Falco va a servirti un bicchierino di cosa rossa, dai. Ragazzi dai, non la mangia la di questa cosa rossa, allora Falco. Robe, non deve mancare quello, A me non c'ero neanche mezzo che non corruttone, figurati. Per carità, io! No, Guido! Dove, Guido, via, sarà ancora che tieni? Ho anche il mio nome ieri, ho sentito un attimo, infatti ho chiuso subito, il mio cognome. Natura, dove vuoi fare? Beh, continuiamo a parlare di altre cose, dai. Dai, un paio di minuti così poi anche io chiudo, che mi vado a una cosa alla televisione che mi interessa. Di nuovo, Falchetto, e poi fa girare. Ciao Rogero, Falchetto solo a fare un po' di carica, dai, e magari ce la riascoltiamo a dopo, dai. Saluto Antonio, Bombo, Natalino, Roberto Quadratto, Pierpaolo, Gianni e tutta la ruota, dai. A dopo. Allora, beh, buon tutto, dai. Io non ci sarò dopo, dai, continuerete voi. Comunque ti saluto, buona carica, buon tutto. Natalino, fai girare e saluta. Ciao, ciao. Ok, ciao Roberto, alle prossime, avanti Pierpa, avanti Bombolo. Ok dai, ci risentiamo. Allora, un paio di minuti rimango, dai, ma mi vuoi già mandare via la carica, un paio di minuti rimango e tu vai già dico ciao ciao, arrivederci. Io ho capito che ne stavi andando. Aiuto, un paio di minuti rimango, ho salutato a Franca e ho detto vai Natali per i saluti. Però se vuoi che me ne andiamo andando subito, non mi sono problemi, dai. Credi ancora, ti prego. Cavolo, già mandati, ti devo. Ah, beh, dai, non ci sono problemi. Non lo vedete anche infatti come lo dite, dai. Ok, ciao Natali, vai avanti. Una scena di... Cosa ti volevo dire? Invece d'accordo mi siete un salvatore per quella cosa... insieme a Gianni. Allora Salvatore l'ho sentito l'altro giorno per telefono, dovevamo lavorare il mio telefono e mi sono dimenticato. Idem a te o a Dante, già nel passato in officina qualche giorno fa, e troppo mi dai il numero di Capri e non me l'ha dato perché me ne sono dimenticato, parlando di altre cose se ne è andato. E Capri non l'ho sentito davanti ieri di sfuggita, ma te lo sento diciamo consecutivamente per un po' di minuti da molti giorni. Se metti più a un salvatore, al limite te telefonate a me, io telefono a lui, quanto ci vuole. E grazie, ma se va bene era tu per il limite, Natali, diciamo non gli viene mai, se non dovesse dirsi, dai, vediamo se Salvatore è disponibile, Capri ha detto che venerdì per lui va bene, penso che per te va bene lo stesso. Perché bisogna mettersi d'accordo a fare le cose sul serio questa volta, Già non è tempo. Data io sto dicendo, ancora non ho niente di preciso, nel senso se ne parlerà più avanti. Per il momento non me la futi nulla, non ci sono neanche minimamente pensato. Poi se Dio vuole, dopo l'estate, che mi ritrova la Puglia, lei le parleremo, ma fare una discussione così tra amici già va bene, nel senso, non ci sono problemi. Riprendi Natalia. Andrà bene Mera. Chi è rimasto qua? Io, Natalia e Arturo. Vediamo se nel frattempo è entrato qualcuno. Avanti sul 21 chi vuole entrare? Sono rientrato io. Fai un nuovo nome. Che è Sandra, avanti Sandra. Sono rientrato io. Ti ha chiamato un attimo prima di andartene. A te che c'è Sandro Belpa che sta chiamando. Avanti Sandro Laghero. Fare Rogero, buonasera a tutti. Sandro Colonna questa. Dicevo Roberto, ogni volta fai questa specie chiamata generale, un attimo prima di andartene. Purtroppo, c'ho altre cose, ci sono, tiene presente, l'orologio dell'apparato, 2 ore e 17 minuti acceso qua, questo apparato qua, fatelo conto da quanto tempo ci sono, poi magari andate un po' più tardi di me, Io adesso voglio mangiarmi anche qualcosina prima di guardare qualcosa magari alla televisione, e poi magari dopo mangiato non è che mi viene molta voglia di ballare, perché sennò mi viene un po' di sonnolenza, devo essere lucido di mente. E comunque mi dispiace, dai, ci risentiamo le prossime volte. Sandro, ho sentito un rumore inconfondibile, mi immagino cosa stai usando, non ci sono problemi. Ti comunque ti rilancio a Natalino, che Natalino sicuramente ti ascolta. Avanti Natalino. Non l'ascolto io, se non l'ascolto ci devo buttare tutto. Ciao Sandro, buonasera. Ciao, buonasera Natalino, saluto di caffè. Io sono in ascolto, poi un po' vai dietro, la mattanza all'altra, perché io non è che ho cenato, quindi vai tranquillo a cenare. Buonasera, con buon tutto, è stato un piacere, almeno un minimo cambio. E come al solito in questo orario mi trovo che sto lavorando, e quindi devo continuare. Rimango in ascolto, ne approfitto a fare saluto a tutti quanti. Sono in Querisa, sono in zona ma rimango in Querisa. Prendo una pertenza lì, Sandro con la questa e saluto a tutti. Vai. Ciao, ciao, ciao Sandro, buona Querisa, allora buon tutto, alle prossime. Avanti per fa. Ma Roberto, salvazione, più lei lo sa, Roberto. Sì, sì, ma non me l'hanno mandato via già prima, Natalino, prima di chiudere, comunque chiudo adesso, ho ancora sentito. Dai, mangio qualcosa, poi mi guardo qualcosa alla televisione, mi viene un po' di sonnolenza, così mi vedrò, ma domani sono più fresco, dai. Vi saluto, dai, come al solito va sempre bene, una bella chiacchierata, non fa male a nessuno, dai, quando si parla di cose tranquille e non si parlava di azzuffe, di apparatori come ieri, dai. Ciao a tutti, ciao per Paolo, Sandro, la stessa cosa, Irem, Natalino, Fanchetto se c'è, non lo so, Antonio e tutti gli amici eventuali in ascolto. Cuoretti da parte mia, ciao ciao a tutti, aspetto i saluti e poi alle prossime. Ciao, riprendo io per salutare Roberto. Ciao Roberto, alle prossime, avanti. Ciao Roberto, buon accare, che buon tutto, buon riposo, cioè, ci risentiamo alle prossime. Ciao ciao. Ciao lo stavo salutando, invece ci siamo sovrammollati. Ciao Roberto, alle prossime, riprendi per pa. Per papà, se ci siamo sovrammollati, allora a me non mi ha sentito. Comunque io non ci avrò perso se mi ha ascoltato adesso. Ciao ciao. Non c'ho altro da parte mia, Roberto. Io ho sentito a tutti, come al solito, mi allontano un secondo e mi muore di uno sopra l'altro, non c'è problema, comunque accetta tutti i soldi. Ciao ciao, di nuovo, cuore di definitivo, ciao ciao. Solido. sia più, no? Perché dopo che sto un po', se manco boccato una volta più, ma sono composato e devo stare con la china picciata pura, che se no mi dove. Dimmi dove. Ma che c'è un po' passaggio, buro. Esatto, ma che sanno? Uno mi ha dato che fa di tutto, influenza, due volte, uno un mese di stanza dall'altro, a volte il capuro, ma di gola, sono portato 3 mesi con cui non potevo avventare, da addirittura da 3 mesi, quasi 3 mesi, dalle prime di novembre, immagina ci ho detto, dalle prime di novembre, fino a ottobre. E poi l'influenza, una dietro l'altra, e adesso questa. Sapete che è inverno di proprio di cacca. Sì, sì, troppo umidità, troppo tutto, meno male non mi ha beccato io quando stavo lavorando. Completamente incinato io. Ho capito. domande non mi rimane mica da un ritmo sull'altro. Con lui. Non sai cosa può essere anche l'altra lì, la mia. Che quella volta nuova che stavo usando, che è pure nuova, ma non so come lo sapevo uscire, tra le acute della rocca di Marai, entra un freddo, ma non si capisce meno la roba, che passa nel fianco e ti mille la china. Passa la salì me ne fa quindi in due, ed invece è per forza quello, per forza quello, perché va congelato e qua sollevo la gamba sinistra e parte della schiena, non so che va via, luce un botto e due maglioni, ma invernato, me ne sono occupato, ma devo andare della gamba. Ehi, magari c'è qualche figlio, va via una macchina, così chi entrava da sotto, un gatto dallo sportello, entrava lo spiffero. E ci bisogna aggiungere la guarnizione in modo di non entrare. Forse c'è la guarnizione troppo fina e ti entra qualche spiffero, che non c'è lo sportello perfettamente allineato alla guarnizione. Così è questa. E questa moto qua, è nuova a me, ma non so, ne ho guardato per tutto, non c'è spaccature, non c'è niente. Cazzo, ma mi viene sale, questo coso di aria fredda, da parte, da sotto lo sportello, le guarnizioni sono nuove. E ne sale da lì e non si capisce bene dove sia. Sì, la vi butto l'altra guarnizione sopra chi sa chi re, cazzo, mi ha messo a Cuglia. E le un freddo, oggi me ne sono andato a casa. Come di lì me ne sono andato. Ma speriamo che passi, perché se no la prossima settimana adesso io domani ci provo, se gliela faccio, la faccio, se no me ne riparo, e prossima settimana vuol dire che è la nuova ospedale e farò qualche controllo in più. Sì, ma è freddura, è quella lì, non ti preoccupare, non va a calcia si dice. Se io sia così, ma speriamo. Adesso vediamo. Ti seguo dicendo, cazzo di merda, io non so se le puoi fare quelle iniezioni lì, quelle di simisciardi, avevi stimato, ti si tira la righeggia, però io sono stato più di una settimana per fare quelle iniezioni, se non cazzo mi baciava, per un grimaldi, non riuscivo neanche a farmi dal letto, io sono a vestirmi una guerra qua. Negativo, negativo. negativo, Natali, io non mi piacciono questi discorsi, e, a parte ho già chiuso e poi non mi interessava niente. Sì, sono un fumelli. Capo, già ho capito, Natali. Purtroppo se non si sa bene bisogna averlo nella forchetta e basta. Infatti chi sono proprio non è, se è capito. Lui quando è così non capisce più nulla e fa andare la bocca. Ma non deve essere così, io sempre colpito intanto che non ragiono, non rientro, non entro neanche all'apparato da vita, è inutile che entro in radio a fare cosa, a fare niente, basta, non è da meno. Io mai stavo scherzando, no, io lo so, quando è così non ragiono, capito? Vabbè dai, dopo questo mi saluto e me ne vado in così, perché mi sta venendo il sonno. Cazzo, domani mi devo fare tutti gli spettacoli in ubino, che mi posso andare a fare solo i su, chi si umanava? Cioè, Tittina. Vabbè, là, ci sentiamo, alle prossime. Natali, oh, ti ha detto corruttore, ma non lo sai che non l'hai informato me? Una cosa? Beh, è il corruttore tu, insomma. Non ho sentito la cosa che voglio fare, va bene, ma a te proprio. Già ho capito cosa volevi dire. E mai di tanto mi ha detto, ma cioè io non attaccami perché sono allo scappolo, ma per dire, sempre con un buone mi ha detto. Tu non volevi dire, guarda, hai sbagliato quelle cose. Sono immunizzato. E vabbè, se stai chiudendo, ciao, buonanotte, la fai, ce l'ascoltiamo domani, dai. Altri ci fosse in ascolto e tutti gli essero più UL alfa 1 QRT la 27 215 KKK Natale, dai, buon QRT, buon tutto, a tutte le prossime, dai. Ciao, buon Natale, ci risentiamo. Marchetto, come me l'ascolti in quella zona? Aspetta che mi giro un attimino, fa un passaggio. No, parliamo un rapporto di segnale. Santiago 5, Radio 4, dai, buona. Cappa, dai. Già va bene anche questo qua. Lo sto provando, lo sto a vedere come va. Positivo, Antonio, non c'è proprio, dai. Tutta la grande qua, dai. Francesco, è quello l'Inter che avevi tu. L'Inter che... Avevi tu? È portatile. No, non avevi un Intec molto comodo, come tira? Ah, il Mobil? Il Mobil? Sta uscendo bene. Cappa, è giusto anche come smitter, Santiago 8 sta arrivando, fai che? Aspetta, no, il tuo, che fine ha fatto? Ma ce l'ho ancora, e devo solo cambiare il microfono, Pierpa. Ma funziona, sì. È positivo, sì, alla grande. Perché mi aveva provato una volta che non andava. Non andava, ma era la problemi di microfono, Pierpa. Ah, capo, però per il microfono già si può fare. Capo, infatti devo comprare quello da 12 euro, così facciamo tutte cose, dai. Come quello da 12 euro? Come si chiama la... adesso mi viene il nome d'articolo. Amidal. Oh, il microfono di qui, il microfono palmare, dai. Ma non ho capito quale, però. Adesso mi viene il nome in mente. Napoli, cavolo, aspetta un attimo, ce l'ho segnato qua. Merciera Marina, aspetta. Aspetta, guardiamo un pochettino. GTE. E quello non c'aveva il lockdown sul microfono. Ma non funziona più quello. Non funziona. Ma è meglio, si può vedere se si può mettere a posto. Ma perché no? sempre a posto. Allora che ho stato più mancato la carcassa? No, la carcassa non è rotta, ho staccato lo spinotto e vuole tutto quanto ricollegato. Capito qual è l'originale suo, però vuole essere a posto e non lo so, adesso non lo so se si può scendere e vedere un po' più là alle tue coordinate se riesci a metterlo a posto. Papa, dove è l'altra volta? Franco, ti prego, scendiamo qua e lo mettiamo a posto. Comprare uno spinotto nuovo a 6 punte, 5 punte, quello che è, e vedere un po' cosa la piglia per il tuo microfono, capita. Non ha giocato nulla, era per il tassirì. E poi se facciamo prima di avere quello spinotto, per fare. E se no lo compro domani mattina, per fare. E io €1,50 costa, non costa molto. Facendo, cioè, no, che se andiamo qua e si guarda il microfono. Ma bisogna far scendere anche l'apparecchio, vero? Come fa a provarlo, se non ne ho io di quelli per provarlo. Allora scenderò anche l'apparecchio, dai, così lo vediamo. Allora, l'apparecchio è col microfono, tutto quanto quello che c'hai del microfono. E poi c'è i fili elettrici sono già staccati completamente. Positivo per me, tutti staccati. Vabbè, tu un po' più di potenza a cercarli, ma già si trovano. Positivo, dai, adesso vediamo domani, ti faccio chiamata così scendiamo, dai, e vediamo di mettere a posto questo microfono. Lo spinotto lo compro io per me. Se ti viene bene, prendilo, dai, se ti viene bene a te, prendilo tu. Positivo, allora vado, coso può usare neanche. Ce l'ho, capito, magari stacco quello suo originale e riporto l'originale. Porta che faccio vedere. Capo che positivo, dai, così ti do conferma domani e ci diamo l'appuntamento e lo mettiamo a posto, dai. Già, ok, va bene, dai. Va bene, anch'io me ne passo in QRT e ce la riascoltiamo domani alle prossime, dai. Ciao ciao, buonanotte, buonanotte anche agli ascoltori. Buon QRT, buon tutto, dai, anch'io fra poco, anzi, subito adesso, ne approfitto a salutare, vado in QRT anch'io, dai, ce la riascoltiamo tutte le migliori. Ciao ciao anche Antonio, e buonanotte a tutti, anche agli ascoltori. Ciao ciao. Kappa, ciao Facche, dai, ce la risentiamo, alle prossimine, ciao ciao. Ciao a tutte le prossime, ciao ciao. Ciao ciao ciao ciao. Hola. Ehi a Gianni. Beh già, come mi ascolti con questo apparecchio? Io tu. Va. E se dite anche Multicom. Pierpaolo stamattina. Chiappa Roger. No, credo che era un po' così, credevo. Chiappa. Sicuramente non è a livelli del mio, però si sente bene, è vero? Sì, la radio è normale, ma è chiara. Ah, che affarroggio. Non ci contavo, Invece esce bene, vedi? Allora, dottor rientro, Gianni. Sì, mi sto rientrando a casa, l'ho acceso, ma c'è già il servizio, quindi me ne sto andando. Ah, caffa. Stavo facendo anche il notturno, stavo facendo. Perché notturno? E ci hanno ridato un SM. Sì, abbiamo ridato 118, no? fatto la convenzione con la SR adesso, ho 118 ancora no, ma la convenzione sì. Ah, K, quindi se vi chiamano un trasporto lo fate tranquillamente, sì. Hola. Capa Gala. Più là ci danno anche 118, ho detto. Quindi. Ma stanno facendo un bel servizio. E K, e già li ho visti anche vicino al negozio. Facendo un bel trasporto. E quelli lì sono importanti, sono, perché più trasporti si fanno e più porta soldini all'associazione. Quello sì, quello è vero. C'è un servizio anche domani, non è conservato, ma senza divisa non ne faccio. C'è l'ufficio di Sant'Antonio lì punto. Ah, quindi non ne fai? No. Se non c'è divisa non li voto. Perché la divisa non te l'hanno data? Me l'hanno data, nel senso che quando dovevo fare i servizi me la davano, poi me la riprendevano, non è che me la portavo a casa come qui. Poi è entrato Luciano, quell'amico, già lo sai, già lo conosci, no? È entrato quello lì, che lo so come me, l'hanno data a lui e è rimasta a lui. Capo, quindi tu sei spiantato. Vabbè, non me la fatti nulla. Io glielo ho detto chiaro in tondo, se non c'ho divisa, se non ce l'ho fatto. Papà, e peggio male, sì. Tanto un bel di gente nuova, ragazzi, nulla. E capo. E beh, se vedono che la situazione sta andando, è logico che entra gente nuova. Ma non c'è più nessuno. Hanno chiuso, hanno. Non so se tu riprendi da casa. Via. Ah, capo. Va bene. Già vi va? A parrocchio. Vabbè, quindi ce la risentiamo da casa? Gatto. Papà. Ok, dai già, dai. Sei arrivato. Bene, meta. Va. Quel qua segna Santiago Nova come segnale. Mi sembra abbastanza giusto. Andare, dai. Ciao, dai, se ce la risentiamo rimango, se no spengo tutto. Certo che riprendo. Ah, capo, va bene, dai, ti aspetto. Va, va. Adesso ho migliorato un pochino. Comunque... Ok, dai. E me Giuseppe, se mi conta già. Ti conto Pierpa che noi ti andrebbe bene la cosa, cambio. E se non andrebbe bene? Niente, notizie negative dall'acquisto su internet ricevute questo pomeriggio, cambio. Come notizie? C'è un evento all'ordine? Pierpa, anche mi hanno contattato per quell'ordine che ho fatto ieri. Niente, anche questi per fine mese, cambio. Per fine mese? E come mai? Ma guarda, sta diventando una vergogna, tu, ma boh, qui a Sassari lasciamo perdere, però anche su internet, guarda che ne ho girato me per cercare questa, quella storia lì, Pierpa. Mi hanno chiamato perché gli ho lasciato anche il numero del cellulare e mi hanno detto se andava bene per fine mese e se no senza nessun problema di rivolgermi da qualche altra parte se la trovavo in tempi più brevi. A Cagliari non ci devi andare, no? Ah, devo andare lunedì, se devo essere sincero, Pierpa, soltanto che io lì devo prendere per Macchiareto, a Cagliari non ci arrivo. Non è neanche il tempo di fare una deviazione. Infatti, perché figurati che devo fare prima la prima sosta a Macchiareto per caricare, poi devo salire su a Sesto per caricare e poi rientrare, cioè tutto proprio fuori mano, perché oltretutto mi sono anche informato, quel negozio di cui stavamo parlando, il Viale Elmas. Dovrebbe essere così, e quindi non puoi fare neanche deviazioni. Poi Pierpa, guarda, sono a del nero e a dir poco, anche perché avevo organizzato tutto per domani, perché oltretutto anche la giornata era positiva, con sole e il tecnico a mia disposizione. Vabbè, con un po' di pazienza poi si risolverà tutto, dai. Infatti forse hai ragione, Pierpa, sono 15 giorni di attesa e poi vedo se riesco a caparmi i piedi anch'io, dai, forse la sto facendo un attimino più tragica di quello che dovrebbe essere. Break. Ora ti break. Buonasera, sera, sì, doppio lungo. Buonasera, Gianni, doppio lungo. In compagnia di Giuseppe e di K2, avanti K2 per i saluti a Gianni. Ciao Gianni, ben sentito. K2, ben sentito anche a te, dai, buonasera. Ho sentito anche a Giuseppe, lamentoso, cosa è successo Giuseppe? Ciao Gianni, ben trovato. Niente, stavo dicendo a Pierpaolo che mi hanno disdetto questo pomeriggio l'ordine che ho fatto ieri su internet per quella commissione. Perché? Perché c'è da aspettare anche per loro fine mese, cioè gli ho letto la vista anche a questi, perché continente, tutto quello che vuoi, siete all'avanguardia su tutto, però non va bene, cioè che per un'antenna bisogna aspettare 15 giorni anche su internet. No, non esiste. 15 giorni per spedirla, secondo me. No, non per spedirmela, no, 15 giorni per ordinarla, poi per la spedizione dice se ne parlava. Ah, questo è tutto suonato. Forse non te la volevo mandare, sai perché? Perché non paghi anticipatamente. No Pierpa, gli ho fatto tutto, addirittura mi devono rimborsare quello che gli ho già mandato, perché l'ho presa da quell'altra azienda di cui abbiamo parlato ieri, ti ricordi? Quello lì gliel'ho fatto direttamente il bonifico, no? Ed era intorno ai 40 euro, proprio la New Tornado, ma Tornado, senti a me, la New, aiutami a dire. Io capisco, l'antenna, come cacchio si chiama, la Rigo. Positivo, dai, niente, prima di fine mese manco loro riescono a far niente, però ho girato diverse aziende lì nel computer, però niente da fare, questa Ringo a quanto pare sta andando a ruba e non ne hanno una disponibile. Quindi bisogna aspettare a Fusaro. Allora prendi da parlare al basso, perché io Antonello gli ho già parlato, detto, quando gli arrivavano, e lui mi ha detto qua, niente da fare, ci sono 31, c'è niente da fare, però domani provo a sollecitare. Ok, dai Gianni, io aspetto a te. Ascolta, se ci troviamo ti do la commissione, così quando scendi, se dovessi arrivare sei già preparato. Ah, no, non ti preoccupare, te li anticipo io, poi al limite mi dirai. Se proprio dovessi arrivare imminentemente, adesso domani ci passo. Tanto sono rientrato a lavoro, mi hanno mandato 2 giorni in fili, quindi non sono rientrato. Ah, va bene, dai Verba, così hai fatto 30 e fai 31, e così dopo questi 2 giorni hai proprio la mente tranquilla per il rientro al lavoro, dai. E facciamo girare un attimino gli amici con Pierpaolo, avanti Pierpaolo. Ma grazie Giano, fregato, quello. No, non penso, grazie a Intec, come antenne. Ma a me già non è trovato un po' di tutto adesso. Siamo da grazie, domani libero sei tu, Giuseppe. Libero come un uccello in volo, Gianni. Possiamo vedere da grazie se è aperto, andiamo insieme e vediamo da grazie se ci viene. Oh, poi potrei essere un attimino più libero se riesco, adesso l'ho mezzo avvelenata mia moglie prima di andare a letto, adesso l'avveleno del tutto così sono libero al 100%, cambio. Cosa le fatta, in bestia? No, ci mancherebbe altro, già, ci mancherebbe altro, anzi. Comunque ne ho venduto un bel... Questa è la voce d'Antonio o sbaglio? Gaffa, la voce mia naturale, gaffa. Ciao Antonio, ben entrato e ben trovato, cambio. Gaffa, buonasera Giuseppe. Comunque, io ho sentito anche Antonello perché mi sono informato. Sta andando a ruba con l'antenna. Sì, me ne sono accorto oggi, Anto, devo essere sincero perché lì nel computer ne segnava una disponibile, infatti ieri sera me la sono subito accaparrata dopo che ho parlato con tuo padre e niente, e oggi mi hanno fatto la sorpresa dicendomi che non era più disponibile, dovevo aspettare come minimo altri 15 giorni. Questo. Ha detto anche Antonello che gli hanno venduto un bel, soprattutto CP che stanno riniziando, eccetera, eccetera. Gli hanno venduto un bel di quelle antenne. Quando non è disponibile, Giuseppe, lo devono mettere al computer esaurito. Entrato Gianni, la stessa cosa che gli ho detto io al telefono, perché mi sono giocato io 20 euro di ricarica del telefonino, perché ho dovuto chiamare loro, hai capito? Per riuscire a capire in quale casino mi ero, cioè ero entrato, e per uscirne in una maniera o nell'altra dovevo telefonarli, perché se non loro l'ordine per i 15 giorni ce l'avevano sempre valido, anche se poi l'antenna riusciva a trovarla qui in zona, mi hai capito Gianni? No, secondo me hanno fatto manfrina, hanno fatto manfrina, adesso bisogna essere il ripeto di su. Penso di sì, perché come persona parlando si è dimostrato una persona abbastanza corretta, mi hai capito, però non credo, dai, perché... Ti ripeto, è stata di una gentilezza squisita, anzi ti devo dire la verità, si è anche scusato per l'inconveniente che si è venuto a creare. Pronto? Va. E io buonasera, Gianni, Antonello. Ciao Antonello. Bene, va, mi ascolti bene, sì. Ok. E con l'S22 sono della lampada. Modificato la mente. È un po', la verdade è un po' barattolosa, è un po', però già ti sento, è comprensibile. Sì, l'inizio stasera la preoccupazione, perché sono uscita brutta, e quindi mi ha regalato con l'Inter che 340 essere modificato io. questo che questo microfono va bene, meglio delle 10, la verità è chiara, con l'altro progetto è giusto, sembra che si sia fatto ora, prendendo calciuffi. Capagaba, in compagnia di Giuseppe Tornado, e poi Vela 1, Antonio Pombolo e moi. Ha fatto bene a tutti, che sono tutti comunque. Avanti a 1-1, no? Ripetite Giuseppe. Sì, ma giusto per una curiosità, l'amico da dove sta modulando? Io lo sento un po' cupo, come dentro un barattolo, cambio. Glielo ho detto, c'è questa modulazione in cupo, però sta usando un microfono che ha modificato, ma mi sembra che sia troppo troppo in bassi anche questo microfono. Una capsula troppo cupa. Vabbè, sta modulando dalla zona del coso, del Conti là. È esatto, di fronte al Conti. Anche se come devo fare? Sì, sì. Adesso, comunque sono di fronte al Conti. Ma io non ho capito per questo, sarà, ora vuoi chiamare. Dove c'era il negozio stata prima. Quindi diciamo che sei su Serra Secca Alta, se non ho capito male. Serra Secca Alta, Kappa. Kappa, comunque vedi che bello ci sei qua. Santiago 8 mi sembra che l'avevo visto nell'internet, ma non mi dimentico che sto usando la magnetica, non ho preso mica più letto. Tu parevi bene, complimenti, facendo bene. La prima volta ti sento come si vede, di solito quando entravi ti sentivo basta, anche di 200 metri, non di più. Adesso come mi senti? Cambio. Bene, Santiago 8 quasi 9, sì. Addirittura. E via, qua è perfetto. Io sto scendo con l'antenna di massima, la sta anche l'attino. Ho capito, quindi diciamo che l'antenna che ho piazzato si sta mettendo un attimino di paura e forse mi ha sentito che la devo cambiare, dai, cambio. Io non so quanto ne devi mettere la verità, quanto ne devi fare la mantova. Io sto modulando con la Storm 27, però mi rendo conto che sono un pochino limitato come uscita, dai, cambio. Quindi devi cambiare antenna. Perché tu la 58, non lo so, una via 27L, non c'è molto spazio, non lo so, una manto qua, ce ne sono l'antenna, perché poi non metto questa che io ce l'ho. Se si pigliano a mano, se si piegano, basta per questo che si piegano con la mano. Ah, guarda, io questo pomeriggio stavo dando un'occhiata così in giro ed ero, a dire la verità, mezzo tentato perché ho visto una bellissima mantova sul catalogo ed è una cosa, guarda, spettacolare, da vedere e soprattutto da provare in fase di ricezione ed uscita. Sì, mi sembra più della mantova, cosa c'era? Però Gianni, con la mantova abbiamo sempre il problema dei tiranti, o sbaglio? Che problema c'è? È il problema che ne devo smontare mezzo tetto per piazzare i tiranti già. E ti dove li puoi mettere? Tanto la zona è abbastanza coperta, quella lì, non è che arrivi molto bene. E insomma, già tira anche qui, già, ma la schinciola sembra così, però quando entra io lo sento qui che fischia ed è una cosa che non si crede. Pronti? Schermo il tattone, sta operando, quanti opera? Te lo dico subito, Pierpaolo, un attimino solo, e ti dico che è vediamo un po', 1,7 per fa. 1,7 Kappa. Sempre. 1,7 come ti sa? No, sto sbagliando. Aspetta per fa un secondo solo che lo guardo meglio. Guarda dove c'è scritto. E 4,5. Può essere 5, 4, ma non 1,7. Cos'è? Una linea proprio di cosa? Di amplificatore dell'antenna TV. Allora, vediamo un pochino qui che cosa dice. 3,25 ampere. Ah, sì, sì. 3,25. E gliela fa ad alimentare quel baracchino? Ti devo dire la verità, però quando schiaccio la portante un pochino va giù, come cosa, come anche luminosità del display. Sì, io ti sto dando tutti i watt ci vogliono almeno il doppio di quelli che c'hai lì. Ecco, anche per questo io volevo sapere che alimentatore posso prendere, visto che io domani mattina sono in girella. Adesso ti dico la verità, dai, perché tanto non di bugie non si può vivere. Io sto usando l'alimentatore che uso per il portatile, per il PC portatile, cambio. No, va bene. Se ci vuole un alimentatore almeno di 10 watt per far pilotare quello lì, anche 7, ma 10 vanno bene. Comunque ti dico una cosa, spesa per spesa uno di quelli normali, intanto da fusato di un 7A lo faccio pagare 75-80 euro, uno da 7A. Mentre invece se vai sul sito della Tecnocomunicazioni, prendi questo come ce l'abbiamo, io ce l'ho anche, è un switching, da 30A, ti dà 30A, ci puoi alimentare più cose, però almeno ti puoi fidare perché ti dà molti più watt e puoi attaccare anche qualche altra cosa. Ho capito, Pierpa, e dimmi una cosa, ma secondo te è possibile che sia anche colpa di questo alimentatore se esco così basso? Non si sviluppa tutti i watt che deve dare, non te li dà al 100%, è sottoalimentato, si ammassa la luce, è vero, quando schiaccia la portante. Sì, Pierpa, vedi, in questo momento, mentre sto parlando, le luci vedo che tendono ad abbassarsi. È chiaro che se rimane già così i watt, non te li dà tutti. Era almeno una buona alimentazione per alimentare quel baracchino, almeno 7 watt, ci vogliono. 7 watt in maniera che siano più numerose per poterlo alimentare bene. Ecco perché io già avevo questo brucio sempre in testa, ho detto ma quando mai, con l'antenna sul tetto, è tutto a posto, ho fatto tutto bene, sto uscendo sempre così male per me. Non è che stai facendo male, dai, già sto facendo bene, però con i vasi chiusi è meglio, perché innanzitutto potresti dare qualche punto S in più, perché ti sviluppa tutti i vasi bene, e poi perché non soffre l'apparecchio. Soprattutto quello, perché io ti ripeto, già l'ho pagato quello che l'ho pagato, anche se mi hanno detto che mi hanno fatto un buono sconto, e cerco di tenermelo diciamo conto, perché non è tutti i giorni che puoi spendere 100 euro per andare a prendere un apparecchio, mi capisci? Ma comunque con un apparecchio ci vuole anche una buona alimentazione. Vai Gianni, diglielo tu. Domani se ci vediamo Giuseppe, ti faccio vedere su Tecnocomunicazioni, andiamo. E te lo faccio vedere io dove devi comprare. Se ti faccio vedere anche gli alimentatori. Comunque, Pierpa, il mio assorbe 2 watt, 2 ampere e mezzo, non assorbe di più. 2 ampere e mezzo, già, ma 2 ampere e mezzo di assorbimento deve portarlo sempre al doppio, almeno 5, poi 4 watt sono quasi 3 ampere, senza dire quali sono 3 ampere, e devi dargli almeno il doppio, lo spunto che lo devo avere pieno, sono già più watt l'alimentazione, devo averne almeno il doppio, perché se no non c'è lo spunto bene, lo sappiamo come sono fatto. Sì, quello lì sì. No, ma io sono d'accordo con te, già che lo sta prendendo, lo prende da 30-40A, se poi vuole attaccare qualche altra cosa, la può attaccare. Ah, 30A basta. 30 al massimo. Se quello da 50 euro che c'è ancora, con la 50 euro sui ciclo c'è 25 ampere continui, se no c'è quello da 75 che c'è 30 ampere continui. Ok, dai, per me va bene, vediamo un pochino se riusciamo a risolvere anche questo problema, anche perché, come ho detto, vedo un po' se riesco a fare qualcosa di serio qui a casa, senza strappare naturalmente. Infatti, ti stavo dicendo, la tecnocomunicazione è una casa molto seria, io ho sempre comprato lì, l'ho consigliata a voltaggio e mi sono trovati sempre tutti bene. Sono stato forse il primo a Sassari a comprare quella di Carica. E ho consigliato a molta gente e si trova tutti bene. In tre giorni ce l'avevano a casa, quindi glielo ho preso. A questo signore qua non dico che si deve incancare, non si arruma con una cosa di più, ma il piremo devo d'incendia. Magari cosa ti stavo dicendo, se metti il palo a passo con la mantova non c'è bisogno di tiranti, ma il palo quello che ho è potrebbe andar bene per fa. Cioè già. Sì, sì, quello lì va sicuramente bene. Perché ho visto diversi cosi lì su questo telecomunicazioni di varie tipologie di coso di antenne, addirittura dai 27 MHz che salivano anche, però non so se quelle più su delle 27 possono andare bene. Pare che sia un pollice e mezzo l'entrata della mantova, così arriva. Alessio, per fare prendi tu da. Caffa, sento qualcuno, sento sotto già. Qualcuno? Quello che stava rispondendo Alessio, forse non stava scrivendo in radio. Ma buon Alessio. No, negativo, non stai uscendo. Non esci di radio se sei tu lì. Sì, ma ti do il colpo se sei tu. Controlla, non stai uscendo di radio. Niente, niente. Ecco, ma sicuramente è lui però, è lui. Gianni, dammi un segnale, a vedere come sto arrivando, un attimino, che voglio capire. Prova. 1 e 3 prova. Sempre il solito segnale, 9:25. Ah, però va bene, dai. Tornato. Eccolo. Allora, se sei d'accordo, magari domani ci vediamo e combiniamo il tutto, se è aperto. Dai, va bene Gianni, per me non c'è problema. Diamoci un appuntamento e io mi faccio trovare pronto. Facciamo le 10 sotto casa, oppure vengo io a prenderti nella macchina mia, non c'è problema. Non c'è problema Gianni, come vuoi tu per me va bene, organizza e per me va bene qualsiasi opzione, non ho problema. Fa una cosa, passa tu sotto casa, dai, verso le 10, verso le 10, verso il tuo posto. Andare Gianni, perfetto. Cappa. Cappa Gianni. Così proviamo a Fusaro, andare a cosa, vedere se da grazia, vedere se c'è qualche cosa. Va benissimo, così vedo un pochino anche dopo questo Grassi. Sai, per un domani mi può essere sempre utile. Non penso che ne abbia già, perché vende Sigma. Che buco. Se non c'è quella, li faccio prendere la manta. Non la può mettere già, poi si ritrova così. Dice che ha problemi per il radiale. Per il radiale? Non la vedo così tu. Non per i radiali, per i tirati. Caffa. Bisogna vedere bene anche, se si può o non si può. Si può bene, se non si può poi è un casino, se le trova con l'antenna lì. Lo vedrà lui, no? Lo vedrà lui se farlo o no, io non è che prendo paura da nessuno. Adesso vediamo com'è la situazione, ci rivado sotto a casa sua e voglio vedere se si possono attaccare questi tiranti. Ho già, domani mattina, tanto hai visto dove è il palo dell'antenna che ho io, ci facciamo un salto veloce e vediamo un pochino niente, la studiamo bene questa situazione, perché se ci sta è bene, se no per 15 giorni, mannaggia, non è, dico, non muore nessuno, dai. Mi auguro che siano 15 giorni, perché lo dicono 15, dopo sono 30, sono 40. E infatti, figurati da quando sono passato io già per ordinartela. L'ho chiamato ieri, da tanto tempo questa antenna, arrivata a facendo finta che interessava a me, mi ha detto, non già, non è arrivata, mi deve arrivare fra 15 giorni, si va sul 31. E allora ho detto, non si può fare niente, sì, sì, adesso stasera mi telefono per sollecitare, vediamo un po' se riusciamo a farcela mandare qualcuno. Ma dimmi una cosa Gianni, ma tra la mantova turbo e la mantova 1 di radiali cosa cambia? E uno di resina e l'altro è in alluminio. Se ci sono con macchie si convengono con le resine, mettere la mantova 5. Ho capito, quindi diciamo che di antenne con radiali piccoli come ho visto io in qualche catalogo non ne possiamo trovare. Capito. E dicevo Gianni che come ho visto in qualche catalogo antenna con dei radiali piccoli, perché scusate, ho detto che la mantova turbo ha radiali da, mi pare siano 5 o 6 radiali da un metro e mezzo l'uno. E così sono. Adesso è così. Oh già. Ehi, ma chi è che lo dice che sono in resina? Sono in fibra di vetro i radiali. E vabbè, non cambia nulla, tu resina, fibra di vetro, sempre non sono in alluminio. Ma uno è resina, l'altro è fibra di vetro. E vabbè, più o meno uguale. Comunque vabbè, fibra di vetro. Alto! E chi lo dice, Alto, che fibra di vetro? E vetro resina non è uguale. E lì ti ha spiegato così, cosa ne so. No, ti dico, di farci il fitto, quando non lo sai. Ma è chiamata fibra di vetro, no? E no, c'è un vetro rischio, ma la fate sicuro da voi, eh? Ma questo non lo so, io so solo quello che ho letto, fibra di vetro, ecco. Ma poi non lo so quelli sono la stessa cosa. Il fatto è che quando eravamo ragazzi noi c'era la vetroresina, aveva bisogno di paroloni un pochino più diciamo più scientifici, no? Con questa fibra di vetro, ma sicuramente sarà la stessa cosa. E come lo spazzino, prima si chiama spazzino nel turbino, dopo ho fatto le croci, prima ad esempio la matrice cosa. Cava, cava. Gianni, oh. Non mi ascolti adesso? Adesso un po' sasso. Sasso, no? Cava. Sì, mi ha qualche cosa, perché ho fatto una parità. E cosa ti è successo? Come non uscivi? Ho fatto che perché intanto si fa il radio, infatti adesso non so che è appena appena. Vabbè, racconti ad aggiustarlo qui, ti sentiamo. Comunque, vabbè. più o meno la resa è la stessa, dai. Cambia qualche cosa, ma la resa è la stessa, quasi la stessa. Diciamo che la Mantova 1 dicono che sia meno coerente, che rimane più sopra come antenna. E mettendo una Mantova 1 che cosa cambia qui, Gianni? Cosa cambia? Che ricevi tutti e trasmetti con tutti, perché l'antenna una 5 ottavi ti dà possibilità di parlare anche fuori, eccetera. Ho capito, ma c'è sempre il problema dei benedetti radiali. Ma i radiali non c'è lo spazio perché ci stiano, io ho visto che ci stanno i radiali. Non fate che stanno fuori dalla facciata, perché hai visto il palo dove sono riusciti a mettermelo già. Non esco fuori, sì. Quando sono in alto che fastidio dà. Ma dai, prendiamola buona come valutazione, anche perché a dire la verità da quando sono entrato qui nel giro mi è sempre piaciuta un po' questa Mantova 1. E niente, vediamo un pochino, diamo un'occhiata già e poi vediamo, tutto al più se ne va raga che passano già sende dentro la finestra di casa, dai. Che devi fare? Basta che tu non attacchi gli aerei grossi, non lo brucia. Vediamo. Quello li ha fatti arrosto. Signore, sai che cos'è, Gianni? Il discorso sempre del vento, solo quello. Una cosa. Allora dici devi mettere il palo di coso. Il palo. Ma tu che palo hai messo? Quello d'acqua? No, non è palo d'acqua, è più grosso del palo d'acqua quello che ho io già. Perché se tu metti il palo d'acqua, mi capisci, è molto più duro. E quindi secondo che altezza la alzi non hai bisogno manco di tirante. Il palo d'acqua è abbastanza rigido, non si piega, capito? Certo, se lo metti 12 metri, normale che ci fuglia. No, 12 metri non è, 4 metri il palo che ho io, però è tosto ed è anche zingato come palo già, e poi è attaccato con due staffe a muro che le muratore quando le ha piazzate me le ha garantite non al 100% ma al 1000 per 1000. Capito, sarà tosto quello che vuoi, però la Mantova è pesante, è un'antenna pesante, ha bisogno di un palo che la sostenga bene, perché se batte molto il vento ti fa oscillare, anche il palo te lo piega, te lo sto dicendo, perché l'antenna è molto flessibile, resiste un vento di 120 km orari, è un'antenna che flette abbastanza, però se ti flette anche il palo sono dolori. Dove ci sono presa? Sono presa la Mantova. Certo, dico, ma la testa non fa che sia 12 kg, aspetta qua, un attimino, allora, Mantova 1, dove si larghezza, pesa, signore, no, è sbagliato che sono, 4,25. Su 4 già cominciamo ad andare d'accordo, ma 12 sono troppi. Aspetta. E guarda, questa qua è la Mantova 1. Andiamo sulla Mantova 5. Peso 7 kg. La Mantova Turbo peso 4,5. Quella la Mantova 5 pesa di più. Ah, secondo me sono pensieri incredibili. Ma non è possibile, sono quasi uguali come prestazione. Sento la prestazione del materiale magari più grosso. C'è più radiale anche la Mantova 5. Uno in più. Ecco cosa vuoi che ti dica tu, se metti tu sì, tu devi polemizzare con una cosa che c'è scritta lì. Se non lo scarsa, non lo scarsa empirica, ma cosa devi polemizzare, sempre fare polemico tu. È strano, molto strana questa cosa. Avrà materiale più grosso, tu. No, non riesco a capire. È un bel strano, Sarà determinato anche il tipo del materiale, che cavolo ne so io. Allora, poi aspetta. Dunque, la Mantova 5 e 7 metri. La Mantova 2 e 7 metri. 7 metri. sempre 7 metri, non cambia, però c'è più radiale. Guadagno relativo 7,5 alla mantova 1, 7,96, potenza massima, lunghezza, peso, guadagno 7,5, la mantova turbo, guadagno relativo 9,6, guadagno relativo 8 dB, la mantova turbo è quella che c'è 8 dB. Vai Gianni. Vedi, quella là fra con dBm del meno, quella che volete dentro la riga. E quindi non è che ci spostiamo di molto, Gianni? No, no, è abbastanza vicino alla circostanza, quello è un quarto d'onda, poi la mezz'onda hanno meno ricezione, meno tutto. Ma siamo lì già, dai, non c'è molta differenza. Quindi cosa dici? Aspettiamo la Ringo, che mi sembra più, visto che l'alluminio mi sembra più robusta. E anche questa è abbastanza robusta, non è quello il problema, anche questa è in alluminio. Però è più pesante, o sbaglio? È un'antenna che dà di più, è più alta e tutto. È un'antenna che dà soddisfazione, dai. Solitamente quasi tutti erano, prima perdevano tutti le Grand Prix perché questa non c'era. Adesso sono uscite queste, poi c'è anche la serie a Roma, c'è la Roma 1, la Roma, non so che mi ferma. E cosa? L'antenna, questa è Mantova, c'è anche Roma 1, Roma 5, eccetera, eccetera. Non le ho mai viste, dove sono? Le ho trovate su internet. Le ho trovate su internet, si chiamano così Roma 1, Roma 5. E sono uguali identiche alla Mantova. Cercavo così in un sito, però non si trovano qua in Italia. C'è la, per esempio, sia in Spagna che in Portogallo, c'è la Portugal 1, 2, 3 e 4. Guarda se la trovi, la Roma 1. Oh, ora non la trovo, ora ci ho trovato da poco, no? Non la trovo, domani la guardo. Penso ogni paese ha le sue cose più preferite, ha tutto qua. Da voi il cazzo di Mantova, ma come sa che aveva Mantova? Voglio comprare qualcosa da chiamare Mantova. E poi quella Portugal sarà come le nostre Mantova, Pierpaolo? No, non è come le nostre Mantova, è una cosa molto più mantodontica. Addirittura? Sì, avevo detto, cioè poi come di B non è che era questa, era addirittura 6,5 di B mi pare. La una è la più grande che mi pare che era la 1, mi pare che era 7 di B. Però erano mastodontiche, cazzo, ciò mi pare che c'aveva 12 metri, lo stilo centrale a 12 metri, radiali, c'aveva radiali anche centrali, i radialini centrali e i radialini sotto, c'era un po' mastodontica come antenna, dai. Beh, ci credo, e lì bisogna avere come minimo un bell'attico dove poterla sistemare bene. Ma io non ho volato, c'era affascinato in Chivi, in Portogallo, in Spagna, di chissà, antenna, però secondo me, non lo so, a me pareva una mezza cagata, ma di nel breve. Cava, cava. E dove c'è? Magari sono antenne che mettono su tradici, rappresentata, però non era, diciamo, sul tetto poi messa in opera, no? Ma sicuramente ci vorranno dei piti alti, un'antenna così alta, insomma. E quanto è alta? Ho capito già. Quanto è alta? L'Italia è 12 metri, mi pare a 3 metri dalla punta c'erano questi radialini. E poi sotto altre, adesso dipende dal modello che è, la 5, 4, 3 radiale, la più piccola. Roba all'ingrosso. E allora, a 3 metri dalla punta, c'erano così i radialini, mi pare, che fossero 12 radialini, una, poi di meno l'altra, e poi più in basso ancora i radiali lunghi da 1,5 metri. E come sempre 4, 5, blu, dipendeva dal modello, la 1, la 2, la 3, la 4. quanto era? No, per base, devo essere sincero, no. Però so che il primo è abbastanza grosso, So già. il primo è abbastanza grosso. Ma quello finale mi interessa, perché l'avanti va francassa per quello finale e deve essere giusto, che entri giusto, perché non deve giocare. Ho capito già. Questo proprio non ne ho idea, lì bisognerebbe chiedere su, vabbè che posso sempre telefonare su a Torino domani mattina e farmi dare il diametro. A Mantova? No, del coso del palo che mi ha venduto lui, perché quello l'ho preso su da Tonino e mi aveva tolto l'ultimo pezzo telescopico perché a me servivano 4 metri. Che quello l'ultimo pezzo deve essere grosso, l'ho fatto da entrare nella mano, ma capito, di starci giusto. Perché poi quando tu stringi la mantova è bella messa dentro, capito? Bella stretta. Certo, e lì non è, lì c'è poco da scherzare, e se ha quel diametro lì per portare le cose deve essere così già. Comunque possiamo sempre risalire a domani, perché il palo me l'ha venduto lui già, e chi più di lui lo può sapere. Guarda, niente di strano che secondo come ci possiamo passare domani e me lo faccio dare in diretta il diametro del secondo sfilo del tubo che ho preso. Adesso vediamo, aspettati la mantova, perché pensi che sia troppo pesante, troppo grande, aspetta l'altra, se no la mantova so dove trovarli. Lo so Pierpa, il fatto è che, ti ripeto, se fosse stata un'antenna che si era potuta piazzare con delle staffe, potendola regolare, sai, come ho piazzato questa qui, ad esempio come ha le staffe la Storm, magari era stato un pochino più semplice, ma visto che questa benedetta antenna, non solo di essere buona, di essere cara, tutto quello che vuoi, ha anche questo alloggio dove lei deve passare precisamente, non lo so, prima di prendere io direi di vedere un pochino in che condizioni è il tubo finale che ho preso su da Tonino. Che la grossetta del tubo bisogna vedere. E infatti io è quello che dico, se noi domattina prima di iniziare il giro ci facciamo un salto su e ci facciamo dare il diametro del tubo che ho io, dopodiché poi valutiamo lì già, tu cosa ne pensi? Non c'è problema. Però la prima cosa che dobbiamo fare è andare sotto casa tua, voglio vedere almeno da giù come si possono mettere i tiranti, se si possono mettere, se no. Ciccia, cosa vuoi fare? Non si può fare una cosa che non si può fare. Certo, perché lì i tiranti li puoi agganciare solo alle tegole, Pierpa, perché hai visto ci sono proprio i due spioventi, perché al centro del tetto da lì parte lo spiovente a destra che va dalla parte della strada e lo spiovente a sinistra che va dalla parte della chiesa. E come ti fai chi? Se lo dice vado tutto qui, se vado tutto qui, mi sento tutto qui, siamo usati quanta. Non diciamo che te la sacro cuore, perché adesso non so se c'è contatto o se è cambiato. Se te la fa mettere sopra la punta, le campanine. Ma io ci stavo già pensando, però quello è un parafulmine, mi Pierpa. Cioè, lo so, sì. E appunto per quello, non ti vanno manco le scariche. Altro. Lui è Carri, io sono Pierpaolo. Sì, infatti mi sono corretto, Pierpa, mannaggia, chi c'era pressami. Beh, comunque valutiamo insieme, dai, vediamo un pochettino cosa si può fare. Non c'è problema, io dico la verità, io ho già comprato il tubo, quello come l'hai comprato tu, ne ho comprato 8 metri di tubo, 3 metri li ho lasciati dentro per rinforzarlo, in modo che risultasse più grosso, poi la parte terminale ci ha messo un tubo d'acqua incastrato e l'ho bullonato. E per il tubo d'acqua ha attaccato l'antenna. Ho fatto così, ho voluto fare così perché non volevo comprare tutto il tubo d'acqua quando avevo già comprato un altro tubo, se no. E poi io ho messo un tipo di staffa che quel tubo lì non va bene, ci voleva la staffa murata e a me a murarla non facevano fare. Ma qui me ne ha murate le muratore lì nel posto del muro, dai, che sporge dal tetto. Lo so, a me non me l'hanno concesso. Io invece avrei voluto fare un altro lavoro qui, e soltanto che era troppo lungo, oh Gianni, perché io avrei voluto prendere, partendo dal sottotetto, forare la tegola e poi permeabilizzarla e tutte cose, però attaccandomi al muro interno sotto le tegole. E quello si poteva fare lì. E lo so, quello si poteva fare alla grande. Diciamo così, l'ho chiesto nel tassetto, ti via tocchiamo in là. E infatti, e adesso vedo un po', dai, se riesco a contattare domani mattina al tipo, vedo un po' che cosa mi può dire. Quella è un'antenna però, che quando la piazza ci vuole il rosso metto giù, Come già, non ho copiato bene. Quella è il rosso entrata con l'antenna, quindi ci vuole anche il rosso metto. A farne della mantova? La ancora di più. Quella lì bisogna proprio accordarla al massimo, dice. Anche l'altra, naturalmente, tutte le antenne vanno accordate bene quando le piazza. Si accordano dalla molla che c'è, si stringe e si allarga. Ho capito, quindi sia prendendo una o prendendo l'altra bisogna sempre accordarle. Ma è questo rosmetro dove si trova? Ma ce l'ho anche io, guarda, te l'ho detto, te lo posso prestare, non c'è problema. Ma ce l'ha anche qualsiasi negozio, la GBC, ce l'ha Antonello, la Fusano. Ah, non sono quelle che vincono le patatine. Ciao. Ciao. Buonasera, dai, entra, se vuoi, te ne sempre la benedizione, dai. No, c'è mio figlio che sta guardando Spider-Man al computer, quindi non posso starvi dietro, va. Va bene, staci davanti allora. Ciao. Faccio del bambino. Ehi, grazie a parte sua. Avanti, Giuse di nuovo. Niente, eravamo rimasti a rosmetro, però se riusciamo a accordarla, dai, va bene, in maniera che posso uscire decentemente anch'io una volta per tutte. Vaga. Vi dovete buscare due portatili di PMR, ce li avete o... Spero che tu ce li avvii. Dici a me, Gianni. Sì, io. Due portatili? Di quelli PMR ce li hai? Negativo. Perché uno sul tetto per dire, dice guarda come vanno le stazionali, tu controlli laggiù e gli dici 1 e 2, stringi per dire. E se aumenta lo dice allarga, capito? Se non porta da 1 e 1. Ma per quello non c'è problema, perché tanto dal bordo lì, e mentre uno sta facendo, l'altro dall'altra parte del marciapiede lo vede tranquillamente. Capito, ma non puoi vedere il rosmetro. Ah, ho capito. Capito, tu da dentro casa lo parli, dici stringi, allarga, capito? Di modo che poi le regoli a uno a uno si regolano sul canale 20 che è il centro banda e poi vai provi tutti gli altri canali, sia i bassi che gli altri. Però io qui dalla finestra con lui ci posso parlare, Gianni. Vabbè, fai così allora, c'è un problema. È un modo più semplice per evitare di stare a voce e cose, capito? Eh certo, perché due portatilini proprio non so dove andare a buscarli. Io ne ho uno. Oppure si può fare una cosa, dai, col telefonino e via. E se ne è perché può che dire? Va bene, tanto mi ho gli sprechi, o ti giochi 10 euro col telefonino, oppure devi andare a comprarli i tuoi portatili già. Ce l'ho anche io, ce l'ho. No! Vito Giuseppe, ce l'ho anche io, risolviamo. Ora si dimostri anche tu, Antonio. Ma capito, carica le batterie con quello di Gianni, con quello mio, poi ce l'ha anche il babbo, ce l'ha. E risolviamo tutto, non c'è problema. Capa Roger e Antonio. Io dico che se la molla la mette la misura giusta, quando è montata a terra, poi scasinare i tuoi e montare quella bene e portarla su nel petto, buia. Dal cornicione che c'è qui, perché con una fune, se stiamo parlando del coso, della ringo, la porti su in un attimo. La mantova, stavo dicendo. Beh, la mantova con quei radiali è un casino, sì. Non è che uno si può avvicinare al cornicione, una farraticiosa. No, questo no, dai. No, c'era un ragno. Se pulimmo le ventose sotto le scarpe potrebbe risolvere con un ponteggio. Cazzo, ma un ponteggio così e dove lo becchi e dove passi qui per piazzarlo? Già cazzo, va a finire che faccio prima a comprarmi una stazione fissa a noleggio piuttosto che fare tutto questo gira gira. No Giuseppe, un'idea. Chiamiamo un camion con la gru. Chissà chi ce l'ha. Facciamo andare il camion con la gru e la solleviamo con quella. La piattaforma. Ma lui ce l'ha la gru, perché deve pagare la piattaforma, non ho capito. Ce l'ha la gru, no? Ce l'ha la gru. Arriva su quel tetto. Sì, ma il fatto che non passa il camion qui nella via. Passa il camion? No, bisogna passare, no, che strazzatura. Sì, non è male questa piazza. Non passa manco la macchina, non solo il cane. Non è lì, per fare. Ah, no, ce l'ho detto la bugia. Facciamo una cosa. Quando hai terminato il giro delle consegne, passiamo a prenderti, così vedi un pochino anche la sistemazione dell'antenna. Io sono libero domani sera. Scappa, non c'è problema, se libero anche Gianni, una mezz'oretta ci facciamo una scappata. Quindi non era dove siamo, ma era vicino, però dove siamo fermati noi. 50 metri. 50 metri. È una di quelle vie. Erpa, eravate a 50 metri, allora tutti, cambia. Chi è questo che è figlio di Dio? Avanti piccolino, chi è? Ciao. Io un saluto, Ciao bello bello, fino alla computer, si siete di lui. E allora voi? Di cosa sei? Sei ora magari? Via. Me lo dici se sei bravo o no? Non rispondi. No, ti vuoi. Sono impegnato. Hai capito. Lascialo vedere a lui. Ma guarda il cartello animati, così. Sì, quello sempre i cartoni animati. E quello dentro era fatto io. Hai capito? Gappa. Va bene, dai, avanti per qua. Aspetta che ti dico una cosa, se no non lo faccio più figlio, no? Cos'è lì? Ci guardiamo, adesso io e Bob andando a letto e ci guardiamo quello delle tre, prima che ci apriamo i denti e poi facciamo la pipì e poi e andiamo a letto e guardiamo il yo-yo. Ecco, saluto a tutti adesso, dai, ciao a tutti. Ciao. Ciao, buonanotte, ciao. E mi raccomando, ricordati di fare la pipì, se non poi te la fai a letto. Ciao piccoli, guarda i Teletubbies su yo-yo, ciao. Ciao a tutti, ciao, buon proseguo. Ciao, buonanotte. Non mi è già dormito, si è coricato come al solito vicino a me e si è addormentato. Ciao, sì, ci sentiamo, buonanotte. Ciao a te. Avanti, Pierpa. Quindi non c'è possibilità del cane di niente. E allora... fare a me che mi conviene fa una centrale nucleare direttamente su a Montebianchino, forse spendo meno. Ma una cosa, cambia casa, vai lì dove c'è la Torre Italia, quella della Telecom, e come si chiama la via, via Taravelli, come si pare su che, e ci fai andare a fianco, stendi un cavo fino alla torre, e lì che c'è un altraliccio, lo metti nella punta e ci stendi il cavo in uno di quegli appartamenti, è risolto. Ma i chimi per fa non sono di comprare l'antenna, stacco direttamente il microfono qui dal baracchino e la stacco a quel traliccio e trasmetto lo stesso. Papa, già funziona, dai. Uia, mamma mia, quanti problemi vi state mettendo, ma prima che quella cosa ci fammi. Beh, io ne sono più che certo, niente di strano che la possa risolvere anche domani, mi per fa. Sì, avanti. Che avanti? L'ho sentito anch'io. Avanti! Vabbè, continua. Che te l'ha coperto questo? E stavo dicendo, Pierpa, niente di strano che poi lo possa risolvere anche domani stesso questo problema qui. Perché se riesco a trovare l'antenna, butto giù il cavo qui dentro casa e via, e il problema l'ho risolto. Ecco, ma tu dici la Ringo però. Mannaggia, guarda, me ne sono innamorato di quell'antenna lì. Lo so. Qualche mese fa già c'era comunque. Io ho un'idea, ma non te la posso dire, infatti la Ringo domani con Giuseppe. Scappa Gianni. Perché non lo puoi dire? Dimmi a me. Perché ci può essere all'ascolto la panzola e non posso dire. Via tutti sull'uno. Come una persona. Era una battuta, ma vabbè. Ti ricordi dove ti ho portato, Giuseppe? Sì, Gianni. Era di Ponte Mudecchi. Capo, è vero mio, già. Scherzando, naturalmente. Non ti voglio dare idee brutte. No, no. Però lui invece una... Te ricordo una cosa. Che non so se ha detto il ragno, che ne aveva comprato 3 o 4 e le aveva preso e le aveva tenute lì e ne aveva comprato 2 soltanto. Lui? E allora, ho detto lui, ne aveva comprato, adesso non mi ricordo se ne aveva comprato 3 o 4 e aveva preso tutti lui quelle che c'era a Fusaro. E allora passo glielo dico, una l'ha piazzata a casa sua, questo lo so. Una è il laboratorio. Allora bisogna passare così, vediamo se c'è un altro. Così l'ho sentito dire a lui, che non ha preso 3 o 4. Paga. E allora bisogna passare in laboratorio, qualche numero non mi pare che non ce l'ho più. Abbiamo fatto una visita domani, già. Ah, non c'è, ci sarà un'altra frequenza. Se ce l'ha lui è meglio, Di sabato non apre, infatti chi c'è? Bisogna vedere un po', dai. Perché se ce l'ha lui, avete risolto il problema. Cazzo, alla grande l'abbiamo risolto il problema. Ma il problema si può anche risolvere se il laboratorio è chiuso, La casa sua? No, gliene stacco quella che è attaccata alla ringhiera. Sto andato per passo. Ma lo risolvo io in campagna, lavorato. Ma parte di iscritti da amico, ma ci vediamo se ce li hai altra fella, dai. Cavolo, e non mi sembra vero. Non sei chiuso, dopo lo picchiamo questo, mannaggia. Domani non c'è. Certo. Almeno che vado a farsi qualche lavoro e te lo becchiamo. Possiamo farci una puntata, dai, tanto verso le 10 e se sta facendo qualcosa lo dovremmo beccare lì. Già. Io avevo il bigliettino per qua, però non so dove l'ho messo, adesso lo cerco. Se non hai capito che posso lo dici, che ti dà il numero di telefono. Ma se sa lui che sta lavorando, dove lo becco adesso? Al telefono, che lavorava presso. No, l'ho chiamato l'altra volta che voleva mandare con mia moglie in quella pizzeria e non ha risposto. Se l'ha capitato una volta, ma non è. Domani mattina lo trovo in senz'altro. Mi prendete che sto cercando una... Come signori belli, signori brutti, a quest'ora mi sono... saluto tutti, buonanotte e risentirci a domani. Bella la prima, ciao, buonanotte a tutti. E ciao Pierpa, buonanotte e a risentirci presto. Ciao Pierpa, buonanotte, buonanotte. Ci sei? Sì, io ci sono. Sicuramente risolve tutti i problemi dopo che ti metti un'antenna del genere, ma è la grande, ma quella lì la lasci stare, sì. Ma io quella, Anto, già l'ho vista in catalogo, e niente, poi da quello che mi avete detto voi, le prestazioni e tutte quelle cose lì, guarda, io sarei in una botte di ferro, credimi. Ho detto quella vecchia, la lasci stare quella che c'è. E no, quella ho intenzione di passarla su nella barra pesante perché quella che ho, la PC4 della Midland, mi sta dando problemi di uscita. Ah, certo, nel frattempo che te ne prendo un'altra. Eh beh certo, anche perché questa qui, montata dove la voglio montare sul camion, dietro lo spoiler, non è nemmeno tanto invasiva, no, perché rimane abbastanza, diciamo, nascosta, dai, però deve prende benissimo. Io credo che lasciarvi stare una e l'altra, anche per... Ma quindi tu dici di, lasciando quella, di fare un'altra calata? No, intanto il cavo lo devi cambiare, perché lo dovrei cambiare. Eh beh certo, il cavo lo cambio per forza, perché adesso la sigla non ce l'ho qui, qui davanti a me, però prendo proprio il cavo, mi hanno detto quello buono. Ah, quello grosso vuoi mettere? Eh sì. 113. Perché Anto, io sul tetto ci voglio salire, guarda, già ci sono salito con questa 3 volte e non ci voglio salire se ce la faccio per altri 10 anni. Conviene fare una cosa buona e basta, e non alzarsi mai più. Poi va bene. Qui lo sai qual è il discorso, Anto, che noi purtroppo non abbiamo un, cosa ti posso dire, come un piccolo attico, ma era passato anche un pezzo di terrazza sul batticemento, anche 2 metri per 2 metri poteva anche andar bene. E noi abbiamo il sottotetto, poi sopra le tegole, e lì ci vuole anche gente che ci sappia camminare, mi hai capito? Ecco perché io ho portato su anche una persona di fiducia, perché questo tipo qui, oltre che a fare il muratore, sa anche dove camminarci, perché secondo cosa fai, fai danno e ti fai anche male su questo tetto. Sì, no, conviene un lavoro fatto bene, non salirci mai più, sostegno robusto sotto, fallo come si deve, tutto quanto, almeno non ci sali più e va bene. Infatti come ho detto poco fa, domani mattina insieme a Gianni faccio un salto su da Corso, alla GPC dove l'ho preso il palo, perché ho preso solo i primi 2 di fili mia, tu, e sono, che io mi ricordo sono abbastanza grossi. Qua quando il palo è piazzato bene, no, non ci devono essere problemi, assolutamente. E beh, cappa, Anto, su quello sono d'accordo anch'io. Tutt'al più, volendo, gli posso far mettere anche un altro tubo di rinforzo dentro e lasciarglielo dentro. No, ma sì, lo rinforzi bene, come si deve. Deve andare bene, dai. A me non ci sali più, capo. Ed è tranquilla, rimane lì e va. Guarda, se mi è stata bene, no, non ti dà mai problemi. Infatti è proprio quello, cioè il mio obiettivo è quello, Anto, fare una cosa fatta bene, riuscire a parlare bene con voi e magari con altra gente, sai, che può modulare, e niente, e riuscire finalmente a stare tranquillo senza avere il problema del capo, il problema del vento, il problema soprattutto del fumo. E poi il problema che voglio risolvere è il problema di questa benedetta antenna. perché, ripeto, se io riesco a piazzare questa benedetta Ringo, che oramai ce l'ho in testa, per me, guarda, è un obiettivo raggiunto, dai. Che caffa, no, ma con quella dovresti arrivare in tutti i posti, no, non c'è limite, no, beh, un'antenna di un certo livello già, dovrebbe arrendere, se c'è un problema, poi, quando prendo un apparecchio un po' più forte, con qualche watt in più, un alimentatore buono, dopo, allora si fa ancora più alla grande. E infatti ne ho visto uno oggi in internet, mi pare che era intorno ai 40 o 45 watt, Anto. Che cosa? Ma era un impianto per stazione fissa, e se non sbaglio doveva essere un Intec. Buonasera. Che cantone cos'è? Anto, forse c'è qualcuno che vuole entrare. Che c'è anche Gianni, ricordato. Avanti Gianni. Manco qua. mi avevate dimenticato, non ce l'avete presi dal discorso. No, già, a dire la verità io ti immaginavo spogliando ancora qualche quaderno, qualche agenda, dico la verità, dai, avanti Gianni. No, non sono riuscito a trovarlo, porca miseria. Aveva il numero di telefono. Vabbè, pazienza. Dai, non succede niente, non è poi così tragica la cosa, ci sono cose ben più gravi nella vita di un'antenna. Io ero grido. Oggi sono successo un incidente a Sorso, c'è nella strada di Sennori, grosso, un altro nella strada di Usilo, Fontale, insomma, un incidente c'è sparito. Diciamo che come giornata è stata abbastanza movimentata, dai, mannaggia. Vabbè, comunque, in ogni caso, domani ci vedo, salvo complicazioni, perché comunque a vedere il modo di avvisarti se ci sono complicazioni, comunque alle 10 tu fatti trovare lì, poi teniamo un po' là. Benissimo Gianni, dai, naturalmente se hai degli impegni e cosa, non metterti nessun problema, ci mancherebbe altro. No, non ti preoccupare, anzi forse è meglio che ci troviamo prima, verso le 9:30 facciamo, perché le 10 è troppo tardi. Va benissimo per me, tanto io sono abituato a starmi presto già, allora che mi alzo io i negozi sono ancora chiusi. Buonasera a tutti, Fabio da questa parte. Ciao Fabio. Cosa c'hai? Sei sempre triste? Come? Sempre triste, ho detto. No. sono tranquillo. No, perché è come me. Buonasera a tutti, Fabio. Per i Morelli. Buonasera, come? Col di posto, sì. No, Antonello, che mi sono ritirato quel baracchino di ieri. Stavo uscendo di testa. Ti aggiustato? Sì. Dove? Non lo so. Oddio, nello square c'è qualcuno. Ecco, abbiamo trovato un controllo là. E va bene, questo che stai usando? Sì, siamo controllo, vedi un po'. 1-2-3, 1-2-3. No, va benissimo, là. La radio va bene. È molto diverso da ieri. Sì, ero grido. Ieri non sentivo niente. Che apparato è? Un Texas, una paglietta. Guarda per canale. Ah, te l'ha riparato bene, è bravissimo. È bravo, sì. L'antenna. Mi ieri ho trovato il tipo, già. Vabbè, cosa ti ha detto? Siamo entrati in garage insieme, mi trovo là dietro, ha esitato su nel portone, ho salito, buonasera, sono venuto per chiedere una cortesia, dimmi, ascolti, quando fa il tempo, posso salire a cambiare il capo dell'antenna che ha problemi, certo, quando mi avvisi, sali. Di domani c'è per te. Davvero? Sì, sì, tutto il giorno per te. Domani c'è sole pieno. Io gli altri si sento male, Gianni, non so come mi ascoltiamo loro. Ti hanno detto che domani c'è il sole pieno. Ah, vabbè, quello che mi interessa a me è il vento, che lì è un po' pericoloso. Anche col tirante, mi raccomando. Sì, tirante, mi sono rimasti tre radiali. Ieri, infatti ieri me ne sono accorto, l'ho guardato da lontano. Tre radiali e basta, ne sono rimasti, cinque ne mancano. Vabbè, quello non è niente, non ti preoccupare, ci rimane stesso. Ma se sai come qualcosa mi lo prendo. Uno l'ho visto nel trattino di quella di sotto a me. Aspettando dritto. E gli altri quattro, tre ci hanno di sopra il tetto. Poi che li vedo le radiali, mi fai pareggi. Davvero? Allora, non so se ce li hanno a parte, ma li vendo. Perlomeno li vendeva quello delle conce. Quello delle conce che è? Diesel, però non c'è più. Comunque si possono sempre costruire, almeno le verghe. Perché sono in alluminio. È in alluminio, vero? È in alluminio, bro. Vai nel legno, no, in legno, così, in legno. Quello che c'è sulla sala di portatore, che aveva roba in legno e tutto qua, te c'aveva i radiali, c'ha proprio le stecche, le altre che ti rifletto. Vabbè. Questa è un'idea, poi mi dico. Vabbè, se ce l'ha. Vabbè, avanti Giuseppe. Sì, grazie Gianni. Niente, l'amico lo sento discretamente, anche se di radio risulta abbastanza basso. A quanto ho capito lui non riesce a copiarmi. In che zona è di Sassari, cambio? Nella stessa casa dove ti ha parlato Alice. Ah, ho capito, quindi niente, dai, non siamo poi così lontani. Praticamente è forse alcuna. Non forse, però la rete sembra un sacro. Dipende da me o è così proprio? No, dipende da te. Tu lo senti bene? Cappa. Anche a quello nel suo lo sente così. Sente sacro? Sì, ma un casino, solo tu ti senti chiaro chiaro. Non lo so, a chi si dice per Giuseppe prego. Sì, dicevo che io l'amico lo prendo a Santiago 5, però è Radio 2, molto bassa. Lo sento chiarissimo Giuseppe. Comunque ha detto che ti sente Giuseppe. A lui mi copia bene, bene, bene, bene. 9:10 qua. 9:10, sì. Addirittura, ma magari forse ho qualche problemino d'antenna, dai, comunque già si risolve. Il radio sembra, ti posso dire, più che saturo, sembra che sia in un canale di fianco, là. Mi splatter, invece. Una cosa del genere. Ma dipende da voi, sicuramente non è stato sintonizzato bene. Comunque fa anche con quello di Antonello. Infatti c'ho le cuffie collegate a quello di Antonello nell'orecchio e poi il mio col volume a palla. Infatti stavo provando la differenza per quello, l'ho detto anche a lui, a Antonello infatti. Comunque adesso stai salendo, eh? Non ho copiato. Stai salendo come ricezione, cambio. Come Santiago. Ah, cappa. Sento bene, bene. Beh, lo sentite bene. Come? Adesso glielo ammetto, come mi ascolti. Benissimo, 9:15, radio 5. A lui il segnale è buono, ma la radio... Cappa, va bene, riprendo io, dai. E vi auguro una buona notte a tutti, ci risentiamo domani, dai, così, ciao ciao. Ciao, buonanotte, ciao per l'anciano. Ciao, dai, buonanotte a tutti. Comunque si modula bene questa radio, dai, la sto provando, ti darà un'oretta, e va bene, dai. Ciao Anto, ci sentiamo presto, buonanotte anche a te, ciao ciao. Buonanotte Antonio, vedi anche a lui sento bene, anche in radio. perché lo sento benissimo. Giuseppe, mi chiami? L'amico ha detto che ti sente saturo di radio, come se fossi fuori frequenza. Io ho detto, no, non è vero, perché lo sento bene. Non lo so Gianni, io Antonio lo sento bene, e mi copiava bene, e Pierpaolo lo stesso. Non so, posso provare a spostarmi un attimo se vuoi. Oh, io ho scoperto oggi. Il Clarif. No, questo qua c'è un dentatore, era tutto aperto. Vabbè, perché lui esce benissimo di radio. Cioè era tutto chiuso, vabbè. Vabbè, come? E come mai anche l'altro allora è così? Quale? Quello di Alice. No, lui vabbè, c'è collegata la cosa, la magnetica, quindi il radio non esce di molto bene. No, no, già va bene, bene. Anche quello lì è strafatto bene, è l'eccezione come si. Benissimo, benissimo. Tutto da quel diodo dipende, ma basta. Non ce ne voleva cambiata allora di cosa, di contatto. No, no, non ha neanche toccato. Infatti non ci trova niente, cioè quello lì nell'esercizio aveva scritto da cambiare il commutatore MFM, ma ci non mi trova nulla. Era un dio, non quelli, non so. La pagava, meglio così, una cazzata così. K2 oggi che non abbiamo sia uscito, K2 ci si. Siamo io, Giuseppe, Alessio, insieme alla Nicola, a Fabio. Yeah. noi la mia figlia è caduta la sera del computer e gli si è spaziato davanti e gliel'ho conservato nel latte e l'hanno riattaccata. bella, bella tabella. Interessante che si sia fatto male la moto rotta, sì. Thank you. non mi è andato bene perché come sono rientrato mi hanno rimandato a casa. Altri due giorni di ferie per riposarmi un po', ha detto, e rientro direttamente lunedì. Masticare, sennò ti salsa. Infatti, è quello che sto prendendo, cioè autobus, no? Ma se si può recuperare, io guarda, a me mi è successo col furgone, stavo aprendo lo sportello, è venuto un colpo di vento, siccome lo sportellone di dietro è grande, non ce l'ho fatta fermare, mi ha preso la faccia, mi ha spezzato un dente, stavo andando proprio da un dentista a consegnare. Stavo consegnando bicchieri, stavo la roba di sono loro, ho fatto lettini, stavo la roba di roba. Quando sono salito su, ho detto, se è un colore, ho crepato anche il labbro, oltretutto ho spaccato gli occhiali, ma meno male non mi sono reso il tutto, se no mi avrei rovinato anche gli occhi. Sono salito su, mi ha visto così, mi ha detto, cosa c'è Gianni, e così così, siccome mi conosce, 5 minuti ce li hai, io te lo faccio subito, va. Ha preso e me l'ha ricostruito. E poi io ho contraccambiato, ho portato la bottiglia di champagne, perché non ha voluto una. E siamo alla volta perfetto, senti, preciso, non c'è mai più rosso. No, me l'ha fatto bene, la verità, non si è più rotto. Mi faccio una corna, però, fatto bene. Io ho un po' che voglio pagare, però che sia una cosa più assurda, hai capito? Perché il ragazzo non è che c'è la mia età, io voglio mettere il senso, sono andato già domani andando, di tirarmi, di farmi rimettere, perché anche a me mi mancano da un incidente, tutti i denti, hai capito? Abbiamo messo una forza quando ero quello già, poi gli avevano aggiustati, questo del Gita che era poco, e lì sono tutti spezzati di nuovo. Hai capito? Lui quello che rimane con la roba di una cura di nuovo. Capito che non ci sia da ricorrere di nuovo al dentista, pago una volta e pago per tutte. Riprendi a Tonello. Chiamiamo quello secondo che sto facendo la moletta, là, ci siamo dopo al limite già. Comunque ne faccio sapere domani lo comprando, dai, ok. Se nel caso sei a casa, scendo giù e ti cambio questo finale, così almeno l'apparecchio si accende e sei a posto, ok? Sì, ancora io già spero di essere a casa e spero che... Hai capito? Sono più comodo per pagare il dente, ma allora, perché l'altro già guarisce, però già il labbro tutto quanto quello si vede proprio abbinato con un dente, mi sa che proprio gli ha mosticato il labbro, era gonfio questa roba, adesso con un ghiaccio sono diminuito, però ancora c'è il labbro distrutto, guarda che ho morito. Lo so. Purtroppo cose succedono, ti fai a moto. Le moto sono belle ma sono allo stesso tempo brutte. Sì, ma però io già non gli ho dato la nessuna cosa, perché non è la sera da abbinare moto oggi. Però già io dico che per terra ci sono le strisciate che sembra un binario. E poi cercano l'impatto, lì sicuramente ho detto si nota la mula del cavalletto, perché la strisciata c'è un bel po' di strisciata prima di arrivare all'impatto e sicuramente c'è stata la mano del cavalletto. Ma in curva gli è successo? Non metti lì io già, non è messo lo stronzo lì, lui stava chiedendo a mettere la moto alla mamma e c'aveva una macchina dietro e una macchina salendo e doveva portare il suo vado a un giro, dove se lo stava portando un giro e poi vado da lì, poi mi ha messo a preso il controllo della moto. Capite lì non è una cosa che tu incontri già, perché ma hai capito un pezzo dove c'è le scale, è bella larga, lì ci parcheggio anche lo sforzo, anche altre mezze parcheggiate, però non ci ho visto lui. Quando sono scelto perché mi ha detto l'amico mio, sono quasi adesso sono quasi il pezzo del dente, come che lui glielo metto a posto, che glielo attaccano. Siamo scelti con un attimo, mi sono quelle strisciate, le due strisciate già, che sembra un binario tracciato per terra, come se tu lo tracci con un gesso. E molto sicuramente ce l'ho fatta, ma non andare su quella moto, la entrata dentro di un filo, la fila non l'ho fatto di andare a guardare. Comunque sicuramente per me ho toccato il cavalletto per terra, la prima di succedere l'impatto. Poi si è sbattuto da qualche parte. Faccia a terra, è caduto già, faccia a terra. Pezzo di albo, questi figli, ho sempre preoccupazioni, è che è un bravo ragazzo, pure, non è che ti dia altre preoccupazioni, ma queste cose qui ti fanno spaventare, ti rendono teso, certo. Sì, già, io ho visto, se l'avevo visto nel collo, guarda, il primo spavento l'ha preso un tappo, che è andato subito, ha aperto la porta, la mamma è salita, ho toccato il sangue in faccia, per un po' gli ha preso un colpo, il mio figlio grande. Poi quando è arrivato a casa, io, minimamente, io stavo prendendo la macchina, avevo fatto già la girata, ero allo stop, tutto, tutti e tre. E mi ha fatto, mio figlio grande, mi ha fatto, si è venuto in conto, ma poi mi ha fatto che il papà era agitato. E com'è che si è sentita male in mano? Perché era anche lui, però già, bene bene, non l'avevo visto perché era buio. E com'è che è successo? Quello era proprio il pulito, avevo poi entrato in casa, con la moto mi è caduto. E come ti fa? Sono guardato, c'era la luce della sala lì, c'era il suo quanto, o in faccia, sì, ha ciucato il suo, però già la testa sua ce l'ha, e tu mi dai il dente, quando mi sono venuto così, mi ha dato un po' di tiro, perché l'altro guarì, e ha detto se non è fatto bene, è una moto che ha 15 anni e sempre, ecco come la cosa, nel mare già è andata bene, perché era già di un uomo che sono lavorato, e la moto gli ha usato un po' di tiro. Ma ti stavo dicendo, vabbè là, già si risolve, già si risolve, cioè, qualche soldino bisogna sborsare, basta, tutto lì. Interessante che veda tuo figlio messo bella. Quello già non mi interessa, da sborsare soldi, no, non è un problema, e tu ti incusi perché finora, e qui in faccia non l'ho controllato, siccome lui ha detto che ha trovato il difetto che può avere il mio Angus 5000, ha detto che controllando quello di Mario Manser, c'è un transistor, che se glielo stacchi manca l'audio e la traduzione, e anche me lo denuncia che in quello che c'ho io può essere successo quella roba lì. Però io sempre di vedere, non l'ho mai toccato, non l'ho mai... E qui domani, se vedo un uomo che chiama il domenico, che magari mi dice, per favore, perché ci conosciamo, che io quello di usare molto l'epoca, se ci conosciamo, ma mi dice, vedi, capito, stasera, che trova un coso per farmelo, capito, non sarò in casa, ma molto probabile che invece sono in casa, perché domani è anche sabato già. E infatti non te ne fa di sabato. Ok, ma intanto lasciamo anche guarire questo labbro, questa roba qui, labbro non parliamo di tutto, perché poi per il solito baracchino proprio per non vederlo, perché mi fa anche un po' di non mi ha fatto il fastidio già. Non pulisco che non voglio studiare, però la puntualità quando mi dice un orario già fa le ore, spacca il minuto, che non ho avuto mai modo di prendere, di hai capito, di dirle niente, lui il grande è calmissimo, lui qualche volta c'ha quegli scatti come c'hanno i ragazzi, però ti dico già che i miei figli posso vantarmi di non li avere, di non gli ho dato mai uno sculaccione. Cava. E loro magari non ne approfittano di questo fatto perché sanno che tu spiriti rispettano anche loro. Quando mi arrivo già si sentono, quando mi appucci, quando mi arrivo si sentono anche a Sassari, si sentono, perché insomma, quando mi sono restato c'è un brutto male, però diciamo di aprirli, ecco, quando mi dà un orario, è un orario preciso, puntuale, capito, da se è andata con lì, capo non lo ricadare perché sono dei timoni, lì che abitano vicino, e che la cosa è il cavalletto, già ecco da vuoi fare, e niente. Falchetto, c'era Pierpaolo, c'era Antonio, insomma c'era un sacco di gente. Ok, la di malattia è Pierpaolo. Mi pare non c'era altro Marconi. Come si chiama a me già, quando lavoravo all'impresa, insomma, sarà una cosa, guarda, che non mi è più tornato questo dolore, cioè mi sono iniziato di dolori alla schiena, beh, quando ero all'impresa io c'avevo questa autometriera, hai capito che in parte eravamo, c'eravamo alla pelle, in parte eravamo in cantiere, faceva tutto lì, capito, ma autometriera di quella da cantiere, non so se devi visto una fiori. Niente, alcuni bancali, lì ho potuto fare lo scommesso, qui passa qui, passa là, capito? Quando si è giovane già non ci si parla, però negli ultimi anni, qui che c'ero nell'impresa, facevamo anche asfalto, facevamo, e non è che il camion rimbalzava, non c'avevamo la trittrice, il po' di asfalto che faceva per raccontare qualche stradina, capito, nei paesi dove il principale pigliava gli appalti, se ne si mettevano due nel camion, uno di questi ero io, e spalettavo la trame dove voleva buttato e però non per poco del lavoro. Buonanotte. casa, intanto fai gli auguri a tuo figlio, il portare guarigione. Ah sì, grazie, la parte mi sono fatti adesso qui. No, già sta calmando, come si chiama il gonfio, adesso mi interesserò per il dente. Ciao, ciao. Ciao, ciao, basta che lui lascia il ghiaccio, stanotte. Anche quello, ciao, già. Non ha contatto con la pelle, mettiti dentro lo straccio. Un fatto vero gli avevo messo, ma comunque ha fatto la sua efficacia, perché l'ho tenuto, mi conosce, non l'ho più tenuto già. Però come tutte le cose si vorrebbero così, anche quello lo dà al capitale, quello vuoi che ti dica. Ciao, a domani, ciao, ciao. Ah, ciao. Era come prima. tanto se già lo sai che se ne va la un fumo. Fabio. Eh? Mi capisco, no? Guarda. Piano però, vai meno di 50 a capo. Ma è bene, è stato bene, mi sembra fare una cosa di là, esci in quelle condizioni, io a casa ci vuole bene, stabile, adesso un po'. Ma quella metà, manca la peccata di spirato, le cose. Se questo è di apparecchio o se questo è di antenna.